nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Diciamolo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, i Maya sono come alcuni, se non tutti, alcuni politici italiani. Cioè, dopo avere anticipato, promesso, no? Avete visto le promesse, succederà, cioè, tutti in tensione, per quanto tempo, per tutto questo anno e poi il giorno prima, e poi non si è realizzato niente, fino probabilmente alla prossima premonizione, alla prossima profezia. Ecco, trovo, diciamo, che ci sia una specie di associabilità, di associazione, no? Tra questo comportamento, anche se per molti naturalmente questo è tirare un sospiro di sollievo, diciamo, ma per esempio quell'imprenditore di Padova di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che si era costruito un bunker per la moglie e il figlio, per lui a Padova, che ne fa mo' di questo bunker? Cioè, vita a cena agli amici, guardate che bel bunker, così se fuori ci sono i fuochi d'artificio per esempio a fine anno non succede niente. Ma insomma, comunque tutti i gusti sono gusti. Fra l'altro lui Padova, ma all'estero ho sentito che hanno costruito di tutto, degne di centrali nucleari, proprio di quelle blindate. Comunque insomma, siamo qui e io, diciamo, ho puntato sulla vostra intelligenza, nel senso, detto, se le ascoltatrici e gli ascoltatori sabato sento che non c'è la trasmissione, capiranno è stata la fine del mondo. Sentendomi invece, come dicevano i dottori di Pinocchio, se il burattino non è vivo allora vuol dire necessariamente che è morto, e se il burattino non fosse morto allora vuol dire irrimediabilmente che è vivo. Ecco, diciamo, questa è un po' la conclusione oggi. Ma allora cominciamo a parlare delle notizie della settimana. Siamo proprio ai sgoccioli verso Natale, mentre correte tra un regalo e l'altro, cucinate o pensate insomma cosa dovete fare, qualcuno sta anche lavorando, altri stanno viaggiando, qual è la notizia che vi ha colpito in questi giorni e sulla quale volete esprimere liberamente la vostra opinione? Il numero verde è sempre lì, 800 24 00 24. Lo ripeto molto lentamente, 800 24 00 24, che è numero verde, quindi non solo gratuito, ma vi dico sempre ecologico, perché in questo modo evitate di disperdere energie, tempo, pensieri altrove. Convogliateli tutti qui e non ci sono più le mezze stagioni. Io intanto, diciamo, vi faccio un brevissimo elenco delle possibili notizie di questa settimana. Naturalmente in primo piano c'è Monti, che ha dato definitivamente le dimissioni, le aveva annunciate, ha detto: una volta che passa la legge di stabilità mi dimetto, e così è stato. E mentre nei giorni scorsi si diceva: ma con chi starà Monti? Ma allora queste liste di centro, allora l'UDC, Casini, Montezemolo, che farà? E chi lo tirava di qua e chi lo tirava di là? Oggi tutti i giornali titolano Monti verso il no alla candidatura, lì con una foto molto pensierosa, centropagina di tutti i quotidiani. Poi cercheremo di capire, domani dovrebbe sciogliere la riserva, così si dice. E poi per quanto riguarda le elezioni, Napolitano allora ha deciso, si vota il 24 febbraio, anche qua con tutte le indecisioni, probabilmente quella è la data, anzi quasi sicuramente. E poi diciamo che sulla fine legislatura, no, per divertirsi, per finire un po' coi fuochi d'artificio, non in modo così un po', no, da mortorio, c'è stata questa bagarre sul voto per le liste pulite e per il tagliafirme, cioè ridurre le firme per poter presentare delle liste elettorali. E poi fra le moltissime cose, un nuovo scandalo alla regione Lombardia, tanto per cambiare, nuova bufera sui rimborsi in regione, altri 37 indagati, in tutto sono praticamente 62 al momento. Diciamo, non so quanti, adesso non mi ricordo esattamente quanti sono i consiglieri in tutto, ma vorrei che fosse la quasi totalità. E poi tra questi anche Renzo Bossi e Rosy Mauro, vicepresidente del Senato in quota Lega, e questa sentenza storica a Milano contro 4 banche estere, che vi ricordate quella storia dei derivati? Uno pensa ai derivati, pensa, no, i derivati del latte, no, i derivati erano degli strumenti finanziari che servivano per autofinanziarsi da parte dei comuni, in questo caso a Milano, eppure pare che queste banche abbiano imbrogliato il comune, e quindi una sentenza storica, nel senso che sono state condannate 4 banche molto importanti: la Deutsche Bank, la DPFA Bank, UBS e JP Morgan, mica bruscoli. E poi l'Unione Europea, che ha decretato che sono illegali le esenzioni ICI alla Chiesa, che però non ci sarà recupero di denaro. Poi c'è stato il censimento, la fotografia dell'Italia sempre più vecchia, multietnica e con più donne che uomini, che questo pare anche una buona notizia. Sequestro dell'imprenditore di Lerici, ancora purtroppo non si hanno notizie. Le palazzine crollate a Palermo, e ieri ne è crollata un'altra, per fortuna in questo caso senza morti. In Pakistan la strage di volontari che vogliono vaccinare la popolazione contro la poliomielite, i talebani li fanno fuori. Forse vogliono morire di poliomielite e far morire tutti di poliomielite. Insomma, questa è l'intelligenza umana. I marò italiani che sono tornati a casa per Natale, e c'è la Russa che col suo movimento Fratelli d'Italia li vuole candidare. Cosa ne pensate, per esempio, di questa idea? WikiLeaks: Assange minaccia nel 2013 un nuovo milione di file riservati verranno rivelati. Poi finalmente l'ONU ha messo, dopo anni e anni di lotte, al bando le mutilazioni genitali femminili. Non che questo risolva la questione nel mondo. Sapete, sono state mutilate 140 milioni di donne e 3 milioni ogni anno sono a rischio, 3 milioni di bambine, però intanto si è decretato che è un crimine, insomma, contro le donne. Poi, a proposito di donne, il servizio sanitario italiano rimborserà l'epidurale, che sembrava un lusso fino a qualche tempo fa. La donna doveva soffrire per forza e se non aveva poi i soldi per pagarsi l'epidurale. Invece, per fortuna, diciamo, anche se Monti aveva presagito che ci potrebbero essere rischi per il sistema sanitario nazionale, almeno c'è per il momento questa giunta. Poi il Papa, che non dimentica mai nelle sue preghiere gli omosessuali, anche questa settimana ha detto: nozze gay, attentato alla famiglia, negazione della natura umana. In Corea del Sud è stato eletto il primo presidente donna. E poi in India le donne che si rivoltano contro centinaia di stupri ogni anno. Sallusti, che ha ricevuto la grazia da Napolitano e con una pena pecuniaria di 15.000 euro per diffamazione. E tra l'altro leggevo che anche il Papa ha graziato oggi Paolo Gabriele, sapete, il suo maggiordomo, che aveva rivelato alcuni segreti del Vaticano. Poi Obama decretato uomo dell'anno da Time, e direi al momento di finire, non c'è neanche più il fiato per raccontarvi. Quindi 800 24 00 24, e come sempre il nostro rito che ci dimostra cosa ci dimostra questa settimana, che effettivamente non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere sono un granché. Abbiamo, diciamo, dei punti fermi, no? Dei punti fermi, e a volte questi punti fermi vacillano pure, cadono completamente, svaniscono. Ecco perché non ci sono più le mezze stagioni. Cade il tabù del 25 dicembre. 25 dicembre è proprio il giorno santo o non santo, credente o non credente, insomma, il giorno in cui lì non si può toccare, tutti in famiglia, tutti con le persone che si amano. Niente, adesso si è deciso che il 25 dicembre i negozi possono essere aperti se vogliono. È una novità che riguarda le città, le grandi città soprattutto. In prima fila alimentari e high-tech, e i commercianti dicono è un servizio ai consumatori. Che ne pensate anche di questa cosa? Vi sembra una cosa? Pietro Lacorte, la parte tecnica, dacci un po' di atmosfera natalizia, no? Parlo del 25 dicembre, eccoci lì, sì. Ecco. George Michael, dannata questo, ci piace in questo momento George Michael. Io direi di presentare a questo punto, senza più farlo attendere, questa apprensione, questa ansia, questa suspense, il nostro opinionista estemporaneo di oggi. Sergio Rizzo. Buongiorno. Caro Sergio, Nadia Zammitti, che ai telefoni bollenti, già arrivano centinaia e centinaia di telefonate, ma sono un po' preoccupata perché Sergio tossiva. Come mi stai, Sergio? L'altro giorno ero completamente afono, solo questo. Oggi per fortuna ti fai corroborato con un po' di sardine, il tè verde, che hai preso? Ho preso la papaya. La papaya, ma quella secca, che la papaya, disidratata? No, che si quella polverina che si mette sotto la lingua. Pare che sia miracolosa, così dicono contro le... A sentirti parrebbe di sì, caro Sergio. Sergio è inviato, editorialista del Corriere della Sera, è quello che ci fa contorcinare la bile, il fegato, quando fa le sue inchieste praticamente costantemente sul Corriere della Sera, a dirci quali sono gli abusi, gli sprechi, i privilegi, insomma, di caste, soprattutto uno in particolare, ma non solo. Caro Sergio, e tra poco ne parliamo, però prima di tutto ti voglio chiedere quanto costa una telefonata da cellulare, più o meno? Quanto costa una telefonata da cellulare dipende. Dipende dal gestore, dipende se sei in Italia oppure se telefoni all'estero. Cioè sono, diciamo che si va da un centesimo fino a, si può arrivare a... Se prova a telefonare in Turchia, a una persona che sta in Turchia, credo che se ne vanno, siamo sull'ordine degli euro al minuto. Senti, non chiamate in Turchia, per favore. Adesso può avere il parente in Turchia al momento per Natale. Fai gli auguri sintetici, magari con un SMS. Però Sergio, te lo chiedevo, perché Sergio poi è esperto di tutto, qualsiasi cosa tu gli chiedi, lui ti risponde. Perché mi veniva in mente, no? Cioè, è possibile che in questi giorni Monti non abbia potuto fare una telefonata a Berlusconi, che si è lamentato, dice, nemmeno una telefonata dopo l'offerta storica che io ho fatto di guidare i moderati. Cioè, possibile? Un SMS, mandaglielo. No, non è possibile. Gliel'ha fatta proprio brutta Berlusconi e Monti, però bisogna essere sinceri. Berlusconi gli ha giocato veramente un brutto scherzo. Perché? Bruttissimo scherzo. Perché? Che è un brutto scherzo? Perché nei patti non c'era sicuramente il fatto che la fiducia venisse revocata in questo modo all'improvviso. Ma lui Berlusconi dice, noi non abbiamo revocato la fiducia, lui ha detto che era colpa di Alfano, che aveva detto una cosa un po' offensiva, insomma, questa legislatura ormai è arrivata alla fine per noi, aveva detto, però cioè, forse poteva... Come non ha revocato la fiducia? Non sono andati a votare, è successo un giorno in Senato, non sono andati a votare, si sono astenuti. Sì, però le Camere non l'hanno sfiduciato come dovrebbe avvenire, no? Giusto. Certo, ma non è mica la prima volta che si sciolgono le Camere o comunque che un premier si dimette perché viene sfiduciato. Quindi è stato un po' un escamotage. Attenzione. Un po' insidioso, vuoi ma dire? Ma non c'è dubbio, ma certo, è stato uno sgambetto, via. E Monti si è legato al dito. Mi risulta che lui sia molto arrabbiato. Molto. Ecco perché l'ha telefonato, arrabbiato. Ora si capisce, non è una questione di costi. Sia molto arrabbiato anche per questo continuo cambiare linea, cioè... Prima gli offre di fare il leader dei moderati, poi dice ma comunque mi candido anch'io, poi Alfano doveva essere il candidato in pole position, poi secondo te è stato avuto diciamo forse sotto il Natale, sai, quei regali, cose, un po' confuso Berlusconi o è stata strategia secondo te questa? Ma Berlusconi vecchia secondo volpe. Me sta commettendo un errore grosso, lui poteva uscire di scena elegantemente, più elegante, e secondo me ha scelto la strada proprio più sbagliata, perché io personalmente, cioè, non per i sondaggi che lo danno ampiamente sconfitto, ma credo che abbia veramente poche chance di tornare a Palazzo Chigi. Tu dici? Sì, penso proprio di sì. Ed è un tramonto molto malinconico di un personaggio che comunque nel bene o nel male, soprattutto secondo me nel male, per gli ultimi scandali a cui abbiamo assistito nel 2010-2011 e che comunque hanno poi contribuito a determinare la svolta che ha portato Monti al governo. Senti, ma a questo proposito... Ha segnato una parte piuttosto lunga della storia italiana. Un ventennio, ma scusami Sergio, ti faccio questa domanda. Secondo te lo ha più danneggiato le sue storie, i processi, le cose, eccetera, oppure gli scandali, diciamo così, sessuali o di feste eleganti? Diciamo che per un premier, per un personaggio che ambisca a essere uno statista internazionale, così come lui... si riteneva l'aspetto, diciamo, della moralità è in Europa un aspetto da cui non si può prescindere, no? Quindi certi comportamenti lo hanno seriamente danneggiato. Io credo che i sorrisetti fra Sarkozy e la Merkel, che tutti ricorderete, oppure la faccia impietrita, siano stati eloquenti, dici? La faccia impietrita di Zapatero durante la conferenza stampa dopo il bilaterale Italia-Spagna, mentre Berlusconi rispondeva ad un giornalista spagnolo che gli chiedeva chiarimenti sui suoi rapporti, le feste di Arcore, eccetera, e lui che diceva io non ho mai pagato una donna perché mi piace conquistarle, io credo che quei passaggi lì siano stati dei passaggi molto molto molto pesanti per la sua reputazione internazionale, e non è un caso che l'altro giorno Mertens, che è il presidente del Partito Popolare Europeo, gli abbia giocato quel brutto scherzo. Quello di invitare Monti al congresso del PPE. È un messaggio chiaro, no? Chiaro e chiaro per dire noi non, non interloquiamo con te, se è lui il referente, questo poteva essere. Non Senti... pensiamo che tu sia la scelta giusta per il nostro partito, perché non ci dimentichiamo una cosa, si è parlato tanto di ingerenza, no? Ho sentito Tremonti che si era scandalizzato dicendo non è possibile che ci dicano loro per chi votare, no? E poi alludendo ai tedeschi, eccetera. Ma se siamo in Europa, certo, e se c'è un Parlamento europeo, ci sono dei partiti, cioè il Popolo della Libertà è federato con il Partito Popolare Europeo, fa parte del Partito Popolare Europeo, quindi che il Partito Popolare Europeo esprima un'opinione sui candidati del Popolo della Libertà, io non la trovo sinceramente una cosa così assurda. Se pensiamo di stare in Europa, no, pensiamo di stare in Europa, allora il discorso cambia, ma... Non possiamo stare in Europa soltanto quando ci fa comodo, no? E naturalmente, Sergio, la razza stracciona non sono gli italiani impoveriti, ma sono quelli invece che si sono arricchiti alle spalle anche di quelli impoveriti, possiamo dire. Sì, se, diciamo sono quel pezzo di classe dirigente che ha smesso di credere nel lavoro. E il lavoro è il bene più prezioso che abbiamo noi italiani, no? Con il lavoro ci siamo risollevati nel dopoguerra. E con il lavoro diciamo abbiamo creato il benessere che stiamo cominciando a perdere, però perché non crediamo più nel lavoro. Abbiamo una generazione di imprenditori che si sono un po' dimenticati, no, della loro missione, perché non ci dimentichiamo noi che le imprese private hanno anche una funzione importantissima sociale, no, in un sistema diciamo capitalistico democratico, no? Sono quelle che sono il motore economico della società, quindi hanno anche una responsabilità, come dire, collettiva, non soltanto individuale, no? del singolo imprenditore. E sono una generazione di imprenditori che oggi preferisce la speculazione, preferisce investire nei prodotti nella finanza, preferisce... speculazioni edilizie, no? Che sono molto più redditizie di altre forme di, come dire, di investimento. Non è un caso che negli ultimi 10 anni, se facciamo un rapporto tra gli investimenti in attività edilizia, diciamo in immobiliari, investimenti immobiliari e investimenti invece dell'industria, se il rapporto è 10-1, non è un caso probabilmente, no? Come non è un caso che ci siano molti imprenditori, alcuni molto famosi e molto importanti, che hanno cambiato natura la propria impresa, magari producevano tessuti e maglioni, si sono messi a fare i gestori autostradali, magari facevano i pneumatici e si sono messi a gestire i telefoni. Quindi questa voglia di rifugiarsi nei settori protetti, no? Quelli, parlo dei settori di tariffe dei servizi pubblici, abbandonando la missione del rischio della concorrenza, questo non ha fatto bene al paese. Ha fatto bene al paese e sicuramente, diciamo, anche dal punto di vista culturale non ha fatto bene. Certo, si è creata una forma mentis dalla quale è difficile tornare indietro. Ma sentiamo Beppe da Torino, 800 24 00 24. Beppe, buongiorno. Buongiorno. Mi sentite? Benissimo. Ah, ok. Un saluto a te, Roberta, con i miei auguri. Grazie, ricambio. A Sergio Rizzo, mio corregionale di cui apprezzo l'opera e le opere, anzi, anche se adesso mi ha stupito il suo intervento sull'errore della strategia elettorale di Silvio Berlusconi. Perché? Cosa pensi tu invece? È che Silvio sa benissimo che non arriverà a Palazzo Chigi. Il suo scopo è di prendere i più voti possibili con l'esposizione mediatica, con l'invasione di campo. Lui, anche se avrà racimolato, il suo obiettivo secondo me è un 15%, non ci arriverà, magari chissà, forse un po' di più, un po' di meno, perché gli italiani hanno la memoria corta, e quello che prenderà gli sarà sufficiente comunque per fare l'ago della bilancia. Ma potrebbe essere, Beppe, non te ne andare, molto, molto sinteticamente Sergio, così poi lasciamo finire Beppe, sì. Può essere un'analisi questa fondata? Guarda, io credo che l'ago della bilancia lo faranno i centristi comunque. poi sempre Casini che dice Montezemolo, sicuramente non Berlusconi, cioè che Monti si candidi o non si candidi, l'ago della bilancia non lo farà Berlusconi. Dimmi solo se secondo te è giusto che si candidi o Monti deve candidare, perché Bersani ha detto di no. Berlusconi, io penso nell'anomalia italiana ci sta tutto. Però in un paese normale non sarebbe opportuno, diciamo. Beppe, volevi continuare? Sì. Vabbè, scusate, devo solo fare un appunto a Rizzo, nel senso che i centristi, francamente, adesso che non si può più candidare Totò Cuffaro, non so se Casini riesce ad arrivare in Parlamento, e francamente sembra molto malevola questa interpretazione. Sono più dei voti dei loro parenti stretti, per cui il vero rischio di Casini, se Bersani non gli dà una mano, è quello di ritrovarsi fuori dal Parlamento, perché non avrà la percentuale adeguata. No, staremo a vedere, questo è molto interessante. Poi dal 24 febbraio, questa è la tua notizia, quindi? Questi quello appunti? Che mi auguro, sì. Anche. Va bene. Qui, senta, solo un'altra cosa, sì. Io in realtà ero intervenuto per un'altra cosa, per un'altra notizia che francamente mi perseguita da quando sono quasi maggiorenne. Addirittura, cioè, quanti anni hai adesso? Di Pannella. No, per sapere quanti anni hai adesso, Beppe? Ne ho 47. Quindi, insomma, una vita praticamente che ti perseguita, sta cosa, lunghissima. Cos'è? No, ma perché praticamente... cioè io mi ricordo quando parecchi anni fa dello sciopero dei terroristi irlandesi dell'Ira. Lo sciopero loro? 20 giorni. I terroristi hanno fatto sciopero? Fame? Sì, i terroristi dell'Ira. Lo sciopero della fame in carcere? Uno si chiama Bobby Sand, qualcosa del genere. Sì. E mi ricordo che Bobby Sand dopo 20 giorni era diventato cieco, praticamente dopo 33-35 giorni era morto, no? Noi abbiamo questo signore qui che è praticamente 20 anni che Pannella. Fa queste peggiate, a parte che io l'ho visto da vicino, e quando era sano praticamente un bestione, cioè un omone, certo. Un armadio sopra. Beppe, quindi tu vuoi dire che lui finge di fare il digiuno, ma sotto c'ha la brioche, poi c'ha le crocchette, questo vuoi dire? I digiuni radicali siano noti perché c'è il cappuccino, cioè sono dei digiuni fatti in modo particolare, però ripeto, a me non me ne frega niente di quello, cioè vuoi dire fa finta, si espone un po' di egocentrismo secondo te, Beppe? Esattamente, io mi ricordo gli irlandesi quando hanno fatto lo sciopero della fame loro, ti è rimasto proprio impresso questa cosa degli irlandesi, è sempre lì. E poi quello che quello che dà fastidio innanzitutto è l'inutilità, a parte l'aborto e il divorzio, delle battaglie, che state grandi battaglie negli anni 70, no? Francamente per me le battaglie sono qualcosa di diverso. Beppe, io ti ringrazio moltissimo e adesso chiedo, grazie Beppe da Torino, Sergio, cosa ne pensi delle battaglie? Adesso l'ultima è naturalmente sul sovraffollamento, lo sapete, delle carceri. Allora, io penso che l'Italia sarebbe un paese peggiore di quello che è adesso, che già non è proprio... Senza Pannella. Lo sappiamo. Se non ci fossero state certe battaglie che sono ascrivibili certamente ai radicali, soprattutto, no? Ma quest'ultima sulle carceri. Pensiamo per esempio al divorzio. Il divorzio, la legge Fortuna, sappiamo che diede un contributo importantissimo, questa spinta forte che veniva dai movimenti radicali, e soprattutto il referendum del 74 venne vinto grazie a una grande mobilitazione. Lo stesso l'aborto, cioè voglio dire, ci sono state delle grandi, io ricordo soltanto una cosa, adesso per non parlare dei digiuni, su cui uno può avere tutte le opinioni che vuole, no? Per carità, il caso Fiorito, lo scandalo della regione Lazio, sì, che ha probabilmente è stato il fatto che ha determinato il cambiamento più grosso che c'è stato nei costi della politica da quando se ne discute, perché le regioni sono state effettivamente le più colpite da questo punto di vista, e poi con tutto quello che sta venendo fuori, è partito da una denuncia dei due consiglieri regionali radicali del Lazio, i quali hanno messo online i contributi che ricevevano dicendo che erano delle cifre assolutamente insensate, abnormi, no? Sì. È tutto partito da lì, cioè, quindi voglio dire, loro sono una coscienza vigile, vogliamo dire, per certi versi. Possiamo avere tante critiche, possiamo muovere tante critiche ai radicali, eccetera, però che loro siano, come dire, una specie di spia che ogni tanto si accende. Sì, una coscienza che ogni tanto si accende e ci fa capire che c'è un problema. Il problema delle carceri è un problema gigantesco. Però dimmi una cosa, Sergio, dimmi una cosa. Allora, noi abbiamo le carceri così piene, uno, perché abbiamo più delinquenti degli altri, due, perché aspetta, abbiamo un numero troppo limitato di carceri, tre, perché c'è dentro gente che non ci dovrebbe stare. Qual è il motivo per cui sono sovraffollate? Allora, dunque, tolto il primo, la prima, che abbiamo più delinquenti di tutti. Non esiste. Sono le altre due, cioè poche carceri. Noi abbiamo delle strutture carcerarie che sono totalmente... Noi siamo un paese di 60 milioni di abitanti che ha qualche cosa, come mi pare, 50.000 giù di lì posti nelle carceri, no? Gli Stati Uniti, che sono un paese che ha 350 milioni di abitanti, ha 2 milioni di posti nelle carceri, 2 milioni, no? Cioè, stiamo parlando di... è chiaro, io non è che auspico che l'Italia... per certi versi diventi come gli Stati Uniti, perché anzi sarei molto preoccupato se... però qualche struttura in più non guasterebbe. Ecco, no? che da noi però ci sia oltre il 50% dei carcerati che sono detenuti in attesa di giudizio è una cosa che non ha senso. Cioè, ricordiamo il film, no? di Alberto Sordi, no? Detenuto in attesa di giudizio, che era un film che negli anni 60 sollevò, diciamo, il problema clamoroso della follia del certa giustizia che non arriva. Noi oggi siamo arrivati a un punto per cui i processi hanno una durata talmente lunga, non sappiamo neanche il numero, non conosciamo il numero, non se ne parla mai di questo, ma c'è tantissima gente che non viene neanche messa in carcere perché non c'è il posto, finisce a fare gli arresti domiciliari, no? Lo sappiamo, questo ormai è diventata una cosa. Una volta uno veniva arrestato, veniva in carcere. Adesso una persona viene arrestata e finisce ai domiciliari, no, nella maggior parte dei casi, perché non c'è proprio neanche più posto, fisicamente neanche proprio il posto. Vi dicevo all'inizio, il nostro rito, non ci sono più le mezze stagioni, poi ci sono anche i riti invece che confermano che ci sono sempre. E vi volevo dare giusto questi dati dell'indagine Eures. Sapete, il femminicidio in Italia, ma è cosa fisiologica, via come la forfora sulle spalle, una donna ogni due giorni viene uccisa dal marito, ex marito, fidanzato, ex fidanzato. Bene, Eures ha messo un po' insieme i dati del 2011, perché il 2012 deve ancora finire, non si sa mai, no? E anche questa settimana donne uccise, sono giovani donne o madri di famiglia, leggo, tra i 25 e i 54 anni, le vittime elette dell'insania dell'uomo, 2061 dal 2000 al 2011, quindi un decennio, pensate, 2061 donne uccise così, non siamo in guerra, ma uccise così tutti i giorni dai partner, 2061 donne morte dal 2000 al 2011, da quando si è smesso di nasconderli sotto il velo dell'omicidio passionale. È evidente come il dato più allarmante dei femminicidi sia che il movente è il possesso patologico. Appunto, questa indagine di Eures, fatta in collaborazione con l'ANSA, nel 2011 sono stati il 39,9%, cioè di tutti gli assassini, gli omicidi in Italia, alle donne il 30%, senza che in genere siano loro coinvolte in risse, in ammazzamenti, cose, no, proprio uccise passivamente così dagli uomini. Questo per riconfermarci che certe cose non cambiano mai. Mentre vi aggiorno anche su un dato, una notizia calcistica, se vi può interessare, Inter-Genoa 1-1, c'è Luigi da Imperia all'800-24-0024. Luigi? Sì, buongiorno. Buongiorno Luigi. Devo dire una cosa che può sembrare un'utopia, ma è un'utopia anche quello di cui parlate voi. Cioè, non sento altro che dibattiti al governo questo, al governo quell'altro, questo partito e quest'altro partito. Non c'è niente da fare. Qui se si vuol cambiare qualcosa deve partire dagli adolescenti. Addirittura. Sì, perché non c'è niente da fare. Ormai il malato è una metafora, è così, è moribondo, che non gli trova neanche una vena per fargli una flebo. E le spiego perché. Dovrebbero avere, già dalle medie e dalle superiori non ne parliamo, studiare pochi libri poco costosi che sono, soprattutto Platone e la politica, Aristotele l'etica e la politica, e poi soprattutto Seneca e Marco Aurelio, però... che sono libri che hanno un'ottantina di pagine, 100 pagine, e costano 5 euro. E nessuno conosce, Marco Aurelio ce lo teniamo in tasca nei 5 centesimi, ma nessuno forse sa che quello lì è Marco Aurelio. Ma tu li hai letti tutti, Luigi? Sì, ma è facilissimo leggerli, ma non li leggo, si conosco il classico, ma sono di una tale profondità, soprattutto Marco Aurelio, io non so se lo conosci, l'ha mai letto, sono un'ottantina di pagine e questo qui non fa altro che ripetere un imperatore, insomma, governava tutto il mondo di allora, altro che questi cialtroni qui che non sanno neanche... Cosa ripeteva? Luigi, cosa ripeteva, hai detto? Ripeteva, oltre a ripetere, agire... secondo onestà agire c'è la pagina c'è, e poi concludeva sempre agire per il bene della comunità, e poi siccome apparteneva agli stoici e gli stoici erano per il cosmopolitismo, diceva lui che l'umanità era una famiglia unica, e diceva questa frase: io come Marco Aurelio o come patria Roma, ma io come uomo o come patria il mondo. Bellissimo, Luigi. Se queste cose non gliele mettono i ragazzi, ma come Vangelo, non cambia niente. Questi qua che ci sono ora non conoscono neanche chi sono queste persone. Hai ragione, Luigi, hai ragione su questo, hai ragione anche sul fatto che questo aiuterebbe un insegnamento di un certo tipo anche al rispetto reciproco, soprattutto anche tra i sessi, anche sulla cosiddetta diversità. Luigi, ti ringrazio, anche se quella degli stoici penso che sia ormai una razza completamente estinta. Prima di sentire Roberto da Roma all'800240024 e di tornare a parlare con Sergio Rizzo, mi sembra che abbiamo pronto il collegamento con Marte, possiamo andare. Riflessioni da Marte. Quassù da Marte, coi piedi a ciondoloni verso il globo terracqueo e col telescopio costantemente puntato e attento, anche sotto Natale, si è atteso e riatteso e ancora atteso, ma non si è visto nessun apocalittico patatracche, neanche una piccola crepa sul pianeta umano, eppure disumano per molti versi, e un po' tutti i bipedi ringraziano di averla scampata, in particolare i parlamentari italici e assai numerosi consiglieri regionali, i quali temevano che là dove non ha potuto l'indignazione popolare e neppure il governo tecnico, potesse essere invece la fine del mondo a mettere fine per l'appunto a vitalizi, privilegi, soldi pubblici per pagare cene sontuose, per acquistare diamanti lecca lecca e salsicce di Norimberga. E persino le province, scampato il fantomatico piano di ridimensionamento del governo, paventavano di essere spazzate via dall'apocalisse, e invece sono e saranno sempre lì. Che sospiro di sollievo hanno tirato laggiù sulla terra un po' tutti, tranne alcuni. Non è infatti probabilmente contento della fine del mondo farlocca, che quindi non c'è stata, Berlusconi, che si vede quindi davvero irrimediabilmente costretto. Quindi io mi vedo costretto è la parola, nell'interesse del paese, per senso di responsabilità, ad essere ancora io il federatore dei moderati. Ecco, per l'appunto, costretto. E non sarà probabilmente soddisfatto neanche Bersani di questa apocalisse non pervenuta, poiché questa volta non avrà davvero scuse per evitare di rischiare di vincere. Noi siamo stati lealissimi verso il governo Monti, francamente, sinceramente non avevamo immaginato che fosse nella contesa. C'è un po' paura. E persino il tecnico Monti forse aveva sperato in un cataclisma che gli evitasse d'un colpo di dover decidere cosa farà da grande. Da qualche indizio però, che vi do come assoluta esclusiva, uno scoop praticamente, sembra che Monti non escluderebbe di fare il medico condotto. Almeno così sembrerebbe da questa intercettazione. L'italiano aveva la febbre anche alta e non si poteva curare con una semplice aspirina. Aveva bisogno di una medicina che non curasse solo gli effetti esteriori o alleviasse soltanto i sintomi. Una medicina amara, non facile da digerire, ma assolutamente necessaria per andare a fondo ed estirpare la malattia. L'unico tuttavia che forse ci ha creduto davvero fino in fondo a uno stravolgimento terreno, a un guazzabuglio interplanetario, è stato Casini. Sentite. Ieri sera ho visto un UFO. Ho aperto la televisione e ho visto un UFO che ha spiegato come si risolvono i problemi del paese. Sarà forse dunque questa la vera unica possibile soluzione? Oh extraterrestre, portami via. Voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare. Voglio un pianeta su cui ricominciare. E ritorniamo subito coi piedi per terra ben solidi, questo non è successo niente di che. E volevo chiederti, Sergio Rizzo, Dio è donna o uomo, maschio o femmina? Ma ho letto che parlano di neutralità sessuale. Sì, la ministra della famiglia, sì, di Berlin, tedesca, ha detto sia neutro, perché dice c'è difficoltà a insegnare ai bambini, quando i bambini ti chiedono ma Dio cos'è, maschio, femmina, eccetera eccetera, e poi anche per una questione di giustizia, no, paritaria. In un'intervista settimanale tedesco di Zeit ha detto di trovarsi proprio in imbarazzo, no, con la bambina di un anno e mezzo che, parlando di Dio al maschile, diceva vabbè ma Dio è maschio o femmina, e dice ciascuno dovrebbe usare l'articolo, sì, das, che sai che è neutro in tedesco. Papa Luciani diceva che Dio è madre. Infatti Papa Luciani è il mio papa, ecco, il mio papa di riferimento è solo Papa Luciani, devo dire la verità. E lui diceva, ti ricordi bene appunto, Dio è madre ancora prima che padre. Sentiamo al numero verde, sempre 800 24 00 24, Roberto da Roma. Sì, buonasera. Buonasera Roberto. Intanto vorrei farle i complimenti, vorrei ringraziare Rizzo per quello che scrive, perché se compri Corriere della Sera solo per leggerlo. Sarà contento. Però non sono d'accordo per niente su quello che ha detto sui radicali, o meglio, sono d'accordo su tutto, ma non sono d'accordo sull'impronta che ha voluto dare alla sua osservazione. Perché? Dici Roberto. Perché? Perché è vero quello che dice Rizzo, cioè è vero che ci sono delle battaglie, però le battaglie che hanno fatto i radicali, non dimenticatevi, sono battaglie che in quel momento erano già state vinte senza bisogno di fare la gran cassa che fu fatta all'epoca. Dici? Tutti i paesi occidentali, cioè tutti i paesi avevano l'aborto, tutti i paesi, ma non il nostro, Roberto. Parlo di paesi, scusi, il divorzio. Per cui è vero che hanno fatto questa battaglia, però quasi contemporaneamente hanno portato Toni Negri in Parlamento. Hanno portato, quella era una provocazione, sono stati grossi errori. No, scusi se mi permetto di prendere una posizione rigida. Permettiti. Le provocazioni non si fanno in Parlamento. Non si possono fare, perché il Parlamento è proprio, credo questo sia l'inizio dei problemi dell'Italia, cioè il Parlamento è stato usato come un'assemblea provocatoria, il Parlamento rappresenta i cittadini, le provocazioni si fanno sulle piazze se uno vuole, le provocazioni si fanno in altra maniera, ma non nel simbolo, nella rappresentanza di quello che è il popolo. Infatti il Parlamento è composto da corrotti. Adesso generalizzo molto, non voglio che... Beh, c'è una buona percentuale, adesso non mi ricordo i numeri precisi, ma sono molto alti di inquisiti e anche di condannati. Roberto, no, io... Indubbiamente sì. Ci sono delle persone per bene, io ho avuto la fortuna a suo tempo di conoscere Natta, rimasi allibito, non la pensavo come lui, però, come si può dire, quando capisci che c'è qualcuno meglio di te, rimani ad ascoltare a bocca aperta. Roberto, io devo dirti, posso essere d'accordo su queste provocazioni non opportune, però che i radicali non abbiano fatto delle grandi battaglie importanti negli anni 70 solo perché negli altri paesi già le cose erano assodate, mi sembra un po' ingiusto, no? Comunque c'era in tutta Europa? Ma non da noi però. Non da noi. E qualcuno, infatti, ci voleva, quindi, che facesse leva col grimaldello, no? È vero, è verissimo che hanno iniziato loro. Intanto non erano soli per il divorzio, mi sembra che ci fossero anche dei socialisti accompagnati ai radicali. Sì. E mi sembra che addirittura l'input sia partito da qualche socialista, non proprio dai radicali. Questo che hanno non fatto lo so. Proprio la battaglia e l'hanno raccolta in pieno. Dopodiché mi viene da fare una riflessione ancora su quello che ha detto l'ascoltatore prima di Luigi, che mi ha un po' intimorito, perché dopo la cronaca su Marte e l'osservazione di Luigi, uno dice, forse sto dicendo delle cose un po' meschine, meglio che mi sto zitto, ma l'osservatore prima di Luigi ha sposato esattamente dei pensieri che io ed alcuni amici nei giorni scorsi facevamo. Sulla dieta, lo sciopero della fame con i cappuccini. Un cristiano qualsiasi dopo 10 giorni muore, e qui ci stiamo da 40 anni, 50 anni. Non auguriamoci la morte di Pannella, magari un cappuccino ogni tanto gli scappa. Roberto, ti ringrazio, tra pochissimo abbiamo la viabilità. Sergio, come vuoi rispondere a questa osservazione? Ma io prima avevo già precisato che non è che condividessi tutto di quello che hanno fatto i radicali. Su Toni, no? Negri, Cicciolina in Parlamento? Ma io penso che il Parlamento, sono d'accordo con questo ascoltatore, penso che il Parlamento meriti un rispetto, perché è come dire, è la casa di tutti noi, no? Quindi la casa dei nostri rappresentanti, e quindi dovrebbe essere loro, per la verità, i radicali iscrivevano queste loro azioni nella battaglia contro quella che chiamavano la partitocrazia, no? Quindi diciamo è un po' differente le loro provocazioni sono molto differenti da quelli da quelle a cui abbiamo assistito in seguito, dalle provocazioni involontarie a cui abbiamo assistito in seguito. Mi riferisco al fatto che poi in Parlamento sono arrivati personaggi veramente fra i più singolari, ma questo diciamo, non facciamo sulla base di una strategia politica, certo, come invece avevano i radicali. Detto questo, come dire, è anche vero che la battaglia sul divorzio portava un forte marchio socialista, perché era Loris Fortuna, no? Sì. ma Fortuna era un socialista radicale, cioè era un socialista diciamo che era molto vicino al pensiero radicale. Pensiero radicale è pensiero radicale liberale, parliamo del mondo di Panunzio, cioè era quella parte d'Italia che ancora considerava importante la parola liberale, no? In qualche modo. E tutto sommato loro sono sempre stati abbastanza coerenti in questa visione, no? Le loro battaglie hanno sempre avuto un storia un po' anticlericale, no? Sono sempre stati, come dire, molto attenti alle questioni dei diritti civili. Non per questo, ripeto, non ci sono delle critiche da fare radicali. Certo. Italo intanto da Anzio, 800 24 0024. Italo. Eccomi. Molto bene. Salve. Salve a te. Ho il piacere di intervenire oggi anche perché c'è Sergio Rizzo che mi costringe a comprare il giornale. È una costrizione indecente questa. Sì, sì. E che apprezzo, è lui col collega Stella che vede molto bene al governo personalmente per fare una bella pulizia istituzionale. Hanno scritto la casta e da lì poi è scoppiato di tutto. Sì. Però mi pare che rimangono poi lettera morta. Basterebbero quella come per prendere quello come programma di governo per prendere i voti. E su questo i prossimi candidati potrebbero essere. Personalmente non mi molto bene. Personale. Ora sinteticamente. Per quanto riguarda invece la situazione politica, io ancora sto dibattendomi in mille ambasce, perché non riesco a capire come si possa ancora pensare che possa essere Monti un eventuale ancora di salvezza di un granchio Berlusconi che è rimasto sorpreso dalla bassa marea sulla Battigia. Si dibatte ormai con tutti i suoi problemi di qualsiasi tipo che non voglio approfondire, ma pensare che possa essere un soggetto che possa ancora trovare aggancio politico per portare avanti il discorso insieme a una Lega che sarebbe pertanto un alleato che farebbe la posizione di guerra, diciamo, e di governo, di opposizione e di governo, dandogli un appiglio su nelle regioni del nord. Dire solo che Monti possa essere anche lontanamente visto come un appiglio in questa situazione ti sembra una cosa molto difficile. Questo è chiarissimo, Italo, più o meno. Francesco da Bari all'800 24 0024. Grazie, Italo. Francesco, a te, molto sinteticamente, sì. Vero? Sì, sì, sicuramente, grazie. Seguo abbastanza frequentemente le vostre trasmissioni perché ritengo molto molto importanti e toccano problemi attuali. Francesco, abbastanza non è abbastanza, devi seguire sempre. Non ci sono più le mezze stagioni il sabato in particolare. Quando ho un po' di tempo libero, insomma, ho possibilità di sentirla, purtroppo, per il lavoro, per altri motivi. Va bene, usi bene il tempo libero. Caso, sì. Sicuramente. In questo caso volevo solo dire che quando riguarda Pannella, io credo che questo succede sempre, questi scioperi della fame, lui li attui quando ci sono le votazioni. E questo ormai possiamo anche cronache, possiamo verificare. Fa un po' pressione così, certo, sui programmi politici. Cerca di prendere un po' quello che riesce a prendere. E ovviamente, però, noi oggi dobbiamo considerare quella che è la situazione reale della sicurezza dei cittadini, di cui poco si parla. Cioè, voglio dire, noi siamo noi adesso i carcerati rispetto a quelli che invece sono fuori. Io abito in un paesino dove, in un complesso dove ci sono 3-4 persone adesso domiciliari. E questa gente che non vuole essere recuperata, è gente che preferisce spacciare la droga invece magari che accudire un anziano. Cioè, oggi non è più la società che forma i delinquenti, sono quelli che vogliono vivere in quella situazione. Perché se io vedo persone che vengono dall'est per lavorare e vivere, diciamo, accudire gli anziani pagati anche 950 euro al mese, come ho pagato io una badante per mia madre fino a quando c'è stata, non vedo perché una persona di questo non possa fare questo lavoro. Francesco, ti ringrazio e in parte hai ragione, ma adesso abbiamo un collegamento immediatamente con il nostro Don Severino da Potenza. Caro Don Severino. Ciao Roberta. Ciao Don Severino. E più che fare un commento, vorrei fare un invito ai giovani, ragazzi e ragazzi, anche alle persone. Dato che il Papa si è messo lì a ciottare, eccetera, ecco, per quanto riguarda il problema che ha insistito sul problema dei gay, che sono contro la pace, la giustizia. Ecco, io invito veramente da domani o quando voglio a intasare di proteste quella sua chat. Declino ogni responsabilità. Sì. Esatto, da indurre, da chiudere questo fatto, questo suo sistema. Cioè, questo è il mio invito per Natale. Intasate la cosiddetta chat del Papa con protesta per quanto riguarda il suo discorso. Grazie, Don Severino. Buon Natale, auguri, e che il 2013 sia l'anno dei diritti. Speriamo. Buon Natale anche a te. Ciao, Don Severino. Ciao. E adesso invece andrei verso la nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale sottoporrei senza dubbio come termine di questa settimana Apocalisse. Valeria. Bene, Apocalisse, allora bene, come al solito partiamo. Molto pacata anche davanti all'Apocalisse, Valeria, sì. Ecco, Valeria, sì, che a sua volta nasceva dalla parola greca apocalipsis, che significava rivelazione. Poi questa parola è stata il titolo dato a opere che contengono rivelazioni sulla fine del mondo, e in particolare il titolo dell'ultimo libro del Nuovo Testamento, quello attribuito a San Giovanni Evangelista, cioè il libro dell'Apocalisse. Poi si è passato al significato figurato, e quindi la parola ha preso il valore di catastrofe, disastro e fine del mondo, quindi proprio quella evocata sconsideratamente in questi giorni. Ora, conclusione, visto che ci avviciniamo alla fine dell'anno e vorremmo tutti vivere un po' più tranquillamente, e visto che la parola apocalisse non può non suscitare in ognuno di noi timori e ansie, concludo dicendo che preferiremmo tutti tornare a dimenticare un po', insomma, il significato ufficiale della parola, quella di fine appunto, e tornare al significato originario, cioè rivelazione. Grazie, anche tu sei sempre una rivelazione. Grazie, Valeria Della Valle. Sergio, intanto ricordo sempre alle ascoltatrici e ascoltatori, c'è la pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, con la vostra libertà di commentare, ci sono gli auguri per voi. E, volevo chiederti, Sergio, sì. Secondo te è giusto che si lavori il 25 dicembre, i negozi siano aperti, diciamo, perché poi lavori come il nostro, insomma, si fanno anche il 25 dicembre? Penso di sì, cioè in un mondo globalizzato mi pare che d'obbligo lasciare la libertà di lavorare a chi vuole lavorare, no? Io sono contro qualsiasi limitazione di natura, come dire, legale. E dimmi un'altra cosa, allora, perché secondo te, a proposito, parlavamo prima del divorzio, è notizia di questi giorni, proprio un dato dell'Istat che registra il sorpasso dei matrimoni civili su quelli religiosi, sinteticamente, perché, secondo te? Ah, perché le società si evolvono e aggiungo per fortuna, perché in un mondo che si sta avviando in alcune sue parti verso degli oscurantismi preoccupanti, penso che all'insorgere di tutti questi governi di ispirazione religiosa nei paesi arabi, e dove, diciamo, partiti di ispirazione religiosa fondamentalista, diciamo, guadagnano terreno anche in paesi, diciamo, meno ancorati a quelle tradizioni. Questo, no? È un grosso rischio, ma anche appunto. Perché, Sergio, tu pensa che il Vescovo di Senigallia... È un segnale positivo, secondo me, no? Senti, dimmi in questi due secondi, mancano due secondi, con questo Natale i nostri politici diventeranno più buoni, si comporteranno un po' meglio? No, ecco, questa risposta così disarmante. Io ringrazio Sergio Rizzo con la sua razza stracciona, ti auguro buon Natale, e naturalmente da Roberto Giordano, ciao Sergio, sereni orizzonti e possibilmente sereno Natale a tutti.